Forse credi che sia facile, ma ti assicuro che non lo è. Forse credi che sia facile, ma ti assicuro che non lo è. Siamo guerrieri tristi con ideali d'artisti già visti e rivisti. Ci sono sbagli, ci sono abbagli e poche speranze per gli errori fatti. Soldati senza armi, combattiamo inermi, confidando di vedere nuovi giorni. Pochi compagni, tanti bastardi, scegliamo l'esercito, ma non il luogo dove andremo a scontrarci. Sogniamo spade e stendardi, ma siamo uomini semplici, armati solo di sogni che si fanno anche da svegli, che non si nascondono dietro sbadigli. Sogni di altri tempi, di misteri persi, sogni di sbandati e di dispersi. Sogni che si fanno anche da svegli, che non si nascondono dietro sbadigli. Sogni di altri tempi, di misteri persi, sogni di sbandati e di dispersi. Ogni notte a combattere contro fantasmi che da cenere e polvere sono diventati nemici da battere. Inventiamo ideali in cui credere, dispersi nell'etere, come puttane che si fanno fottere. Sì, perché siamo polvere di stelle, sì, polvere di stelle vagabonde che non sanno come procedere, dove cazzo andare a sbattere. Sogni che si fanno anche da svegli, che non si nascondono dietro sbadigli. Sogni di altri tempi, di misteri e persi, sogni di dannati e di dispersi. Sogni che si fanno anche da svegli, che non si nascondono dietro sbadigli. Sogni di altri tempi, di misteri e persi, sogni di dannati e di dispersi. Ma ti assicuro che molti non ce l'hanno fatta. E in mezzo alla tempesta si sono lasciati andare, mentre altri continuano a nuotare. Continuano a nuotare. È importante fare sogni. Senti come sono, eh? È importante fare sogni. Noi ce ne abbiamo un enorme, che un giorno arrivino i fricchettoni e prendano il potere e trasformino la nostra vita in qualcosa di più che bello, di più che meraviglioso. Qualcosa in cui, se ci crediamo, succede, anzi succederà.